io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh? La Zanzara. E l'udici lo sai, sarò, sei arrivato fin lì e ora sarò, se non fai quel che voglio lo dico. Adesso tu penserai, con tutti i problemi che ci sono, con le primarie del PDL che stanno finendo nel caos, con Alfano che incredibilmente oggi ha fatto una dichiarazione sugli indagati, cioè mi ritiro se ci sono dei candidati alle primarie indagati, dopo che a mezzo partito con gli indagati, i condannati, eccetera eccetera, cose di pazzi, cose bravo, di pazzi, bravo, cose questo di... giovane, questo nuovo leader Alfano si chiama, hai detto, no? Ha detto una bravo. Stronzata, diciamo subito la realtà, no, diciamo subito le cose, una come cosa stanno giusta, non vai, ma tu sei un mozzorecchi di bassissimo livello, un mozzorecchi, sì sì esattamente, bravo, un mozzorecchi di bassissimo livello. Con tutto questo io voglio iniziare però sull'ultima impresa del signor Sara Crocetta. Il signor Sara Crocetta che sta trasformando la giunta siciliana in una sorta di circo Barnum. Lo sai chi ha nominato assessore alla cultura? Per carità, ha detto con tutto rispetto. Sì, ho visto, ho visto. Il signor Zichichi. Ma chi hai controbattiato, Zichichi? Non capisco. Ma un assessore e poi anche una studentessa di 29 anni, non so. Ma un assessore normale. Molto cioè un signore di magari 40 anni, 45 anni o 35 anni, con una sua struttura. Magari anche un politico, così. Cioè, no, cambiare, no. Cambiare. Questa regione ha bisogno di uno shock. Zichichi, professor Zichichi, per carità, rispettabilissimo. Non so quanti anni abbia, non lo so, non conta. È meraviglioso. Non così meraviglioso, ma l'assessore deve fare, c'è le scartoffie, le carte, c'è. Sentiamo. I raggi cosmici sono stati scoperti 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, e ancora non si sa da dove vengono. Dopo aver viaggiato milioni e milioni di anni, arrivano da noi e producono gli sciami cosmici, grazie ai quali la fisica ha capito un sacco di cose, talmente enormi che oggi noi siamo in grado di formulare l'ipotesi che... C'è uno scienziato bravissimo, però insomma, gli scienziati, è meglio che facciano gli scienziati, i divulgatori, quello che voglio. Gli assessori regionali in Sicilia, devi combattere con i dipendenti della regione Sicilia tutto il giorno. Ma in realtà, secondo me, Crocetta vorrebbe fare tutto. Questo è il punto, vorrebbe fare dunque nomina dei personaggi conosciuti così per fare scena, come si dice, ma in realtà poi comanda lui anche tutti gli assessorati, capito? Numero ma uno. Sì, ma ha ragione lui, basta con aspetta, i vecchi aspetta, arnesi della politica siciliana. Andiamo alle cose serie, andiamo alle cose serie. Sì. Brunetta contro Santoro. Ah, l'ho visto, strepitoso. Giulia, e quanto guadagna lei, scusi, Santoro? Quanto guadagna lei? Ma quest'anno, l'anno scorso sono stato lontanissimo dalla cifra che ha detto lei. E quest'anno? Da un'azienda in perdita come la 7. Quale azienda in perdita? La 7 in perdita. Ma il nostro programma non è in perdita per niente. Ma noi siamo un programma indipendente. Io non sono un dipendente della 7. Lei è l'unico che non lo sa in tutta Italia. Non dipendo dalla 7. Ma perché questa fissazione sui soldi, su quanto guadagna Santoro? Non ho capito. E quanto guadagna lei? E quanto guadagna? Ho fatto io la legge. È la trasparenza. Ma vada via al... Senti. Allora guardi, io li metto domani questi atti in rete e lei mi chiede scusa, va bene? No, per niente. Allora, la mia legge. Allora, scusi. La mia legge. Sta così. La mia legge. Vada via. Scusi. Scusi. Via lei. No. Se lei non... No? Se le dico che le porto le prove. Ma che prove? Lei dice no. Io le porto la mia legge. Ma chi te ne frega della legge? Bussero, come no? Vabbè, un sacco di scazzi, cose meravigliose, cose meravigliose. Beh, Brunetta protagonista anche di una brutta cosa nei confronti del signor Vendola, sì, del signor Vendola. Ancora l'interpretazione è discussa, però mi sembra, insomma, inequivocabile. I dati mostrati dimostrano il contrario. La tua è retorica. È retorica, no, demagogia. Sì. Ricordo ha dimostrato che l'ultimo anno di Berlusconi è stato il record del recupero dell'evasione fiscale. Ma perché stai dicendo una cosa? No! Tu ti agiti in altre maniere. Io mi agito in maniere normali, ma non importa. No, continui però, arrivi a una conclusione. No, normali facendo i miei ragionamenti. Io mi agito in maniera normale, tu in altre. Era all'interno di un discorso, però mi sembra che non ci siano dubbi, no, Parenzo? O no? Ma è evidente, inequivocabile. Cioè Brunetta, vuole dire che lui si eccita in maniera normale, cioè da eterosessuale, con le donne. Mentre Vendola si eccita in altre maniere, da omosessuale, dici che è quello? Mi pare abbastanza una battuta, mi pare abbastanza evidente. Ma non è una battuta, era pure incazzato. Ma è sempre arrabbiato. Alfano e gli indagati. Frase, frase assurda di Alfano. Ma perché? Ma perché è incomprensibile, Cosa significa? Allora dicesse una cosa sola, non voglio nel mio partito nessun indagato, cosa che è folle e che rinnegherebbe tutta la storia del PDL, cioè quella garantista del PDL. Beh, perché no, comunque un indagato non c'entra nulla né con un condannato di primo grado, né con un inviato a giudizio, né con un condannato di secondo né con un condannato definitivo. Questo bisogna dirlo, per cui dire che non si devono candidare gli indagati è ridicolo. Alfano, io vorrei dire una cosa molto netta e molto chiara. Si tratta delle primarie per la premiership del paese, devono essere una cosa seria e aprire una fase del tutto nuova, per cui io sono contro la candidatura a queste primarie di indagati. Faccio un appello al neonominato Comitato dei Garanti, se ci sono indagati io annuncio fin da adesso che non ci sarò io a queste primarie. Ma sembra un modo in realtà per mettere fuori alcuni che si sono già candidati e sono indagati. Per tirarsi lui indietro rispetto a una sfida difficile. Ma che tirarsi lui indietro, quello non credo. Intanto se n'è andato. Bravo, ma che bravo, ma sei pazzo tu. Perché ha lanciato un anno e mezzo fa il partito degli onesti. Ma quale partito degli onesti? È una buffonata. Qualsiasi partito che si appelli agli onesti è una emerita buffonata. Ascolta invece Sgarbi, che si è ritirato qualche minuto fa proprio in contrapposizione a queste frasi di Alfano. Perché dov'era candidato Sgarbi? Non riesco più a seguirlo. Dov'era? Era candidato alle primarie del PDL pure anche lui. Anche alle primarie del PDL. No, perché il mio amministratore di condominio mi ha detto che si è candidato anche per me in zona salario, nuovo salario. Allora, bueno. Innanzitutto la Bertolini, che è andata via dal PDL per aderire a un movimento promontiano. Isabella, ne parlano tutti di questo movimento promontiano. Ma la gente non fa, anche oggi da panettiere, tutti. La Bertolini senza Berlusconi puliva i cessi. Senti Sgarbi. Ora sei più tranquillo. Tu che sei più grillino di Grillo. E se li sedurrai loro ti supporteranno. Arriva. Bertolini ha detto ieri una frase incredibile, ha detto il nostro schettino che è Berlusconi ci ha abbandonati e noi se non siamo Berlusconi, questa qui andava a pulire i cessi. Vabbè, andrebbe presa a calci nel culo. Ti piglierà delle querele stamattina. Che gente così, la quale odia, siamo lì perché di Modena. Poi Crosetto e un ciccione, senti, la cicciona Bertolina hanno paura di Samorì, ancora con sto Samorì che torna sempre. Perché ti dico questo? Quando comincia questa cosa delle primarie, io lancio lui e lui mi smentisce, però crea turbamento in Crosetto, un ciccione enorme che arriva Samorì, la mia collega cicciona Bartolini dice che uno che ha fatto delle cose, Bartolini è tanto fedele che è andata per conto suo, questa no, cicciona. Vorrei dire che... Cicciona, andava a pulire i cessi, Sgarbi Show, sempre dalla Merlino. 800 24 00 24, c'è ancora tanto da farvi ascoltare di questo cabaret pazzesco che stanno diventando le primarie del centrodestra e non solo, ma abbiamo con noi uno di quelli che Alfano vorrebbe cacciare dalle primarie, vero? Cacciare a pedate nel sedere, il nostro amico immobiliarista, capo della Proto Consulting, Alessandro Proto, eccoci qui, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Beh, state parlando con il futuro premier del PDL a questo punto, perché se l'onorevole Alfano non si candida, se ci sono degli indagati, a quanto risulta dai giornali, io sono indagato, sì, io mi candido, quindi l'onorevole Alfano, sì, che per definizione è un onorevole, quindi è un uomo d'onore e sì, deve mantenere la parola, non si candiderà alle primarie. Cioè, quindi, in che senso? Non abbiamo capito nulla, scusi, però allora partiamo dall'inizio. Alfano, l'onorevole Alfano ha detto, se ci sono degli indagati io non mi candido, giusto? Sì, sì. Perfetto. Io, da quello che risulta dai giornali, sarei un indagato. Sì, per truffa e aggiotaggio. Dai giornali. A lei non risulta? A me non risulta. No, l'ha già detto che non gli risulta. Vabbè, lasciamo perdere questo. Lasciamo perdere questa, non ci interessa. Mettiamo caso che dai giornali risulta che io... Mettiamo che sia vero, mettiamo che sia vero. Sono un indagato. Sì. Mi candido alle primarie del PDL, quindi l'onorevole Alfano, come da sue dichiarazioni, non si deve candidare. Ah, deve ritirarsi, ho capito. Dunque, certo, mi faccia capire, lei dunque conferma, mi candido lo stesso? Mi candido se Alfano mantiene la parola. No, ma scusi un attimo, lei sì, innanzitutto pare che non decida Alfano, ma una sorta di comitato dei garanti. Ma chi è sto comitato dei garanti? Quando è che è stato? Ma l'avrà nominato lui, non lo ma so. Ma quando è che è stato costituito? Da chi è composto questo comitato dei garanti? Già, è un partito, avrà un comitato dei garanti, tutti i partiti. Ah, scusi, non è un partito PDL, scusi, però tutti i partiti. Allora, siamo veramente adesso. Però ci dico una cosa, che abbiamo traffico. Adesso, a parte gli scherzi, lei conferma di essere candidato, sì o no? Conferma, mi candido io lo stesso. Le confermo la mia candidatura e le ribadisco ancora che se l'onorevole Alfano, sì, ha fatto una dichiarazione, sì, di questo tipo, no, l'ha fatta, deve mantenerla, d'accordo? Sì. Visto che ci sono degli indagati che sono candidati al PDL, si ritiri lui. Certo. Ho capito, ma non è lui a decidere, sarà questo comitato magari ad estrometterla. C'è qualcuno che la può... Ho capito, ma Alfano avrà una testa con cui pensare, giusto? Sì, allora? Giusto, lui ha detto questa cosa. Ho capito, ma non... che se si candida qualche indagato. No, lui ha detto se viene confermata la candidatura di qualche indagato. Gli indagati fino adesso, se solo lei e Samori, forse Sgarbi avrà sicuramente altre cose, ma si è ritirato da solo contro Alfano. Rimanete lei Sgarbi, e Samori. Sgarbi si è ritirato? Sì, Sgarbi si è ritirato, sì. Peccato perché. Peccato, sarebbe stato divertente, Sgarbi. No, Sgarbi è una persona di tutto rispetto. Vabbè, pronto, torniamo subito. Lei comunque ci ha detto, io confermo che sono candidato, non me ne frega niente di questa cosa di Alfano, giusto? Io non ho capito una cosa. Allora, Alfano ha detto, se si candida qualche indagato, io non mi candido. Sì, ma non è che ha detto se si candida, se sarà confermata la candidatura di qualche indagato. Cioè, se ci sono degli indagati... È confermata. È confermata, ancora deve essere ufficializzata, c'è un passino dei passaggi formali. Lui si è appellato a questo comitato dei garanti. Però, insomma, al di là di questo, Proto, di queste cose che non fregano nulla agli ascoltatori, lei conferma che si vuole candidare e sostanzialmente dice, a me di quello che dice Alfano non me ne frega niente, o no? A me di quello che dice Alfano non me ne frega assolutamente nulla. Caro Parenzo, la Biancofiore ne ha detto un'altra delle sue oggi, Che ha detto oggi? Una cosa entusiasmante della White Flower. Berlusconi potrebbe ottenere il 51% con una grande rivoluzione di popolo. Io alle primarie rappresento il berlusconismo, la ricetta del 94, mutatis mutandis. È stupenda. Poi mutatis, quelle le mutande? Mutatis mutandis. Intanto c'è una ridicola guerra all'interno del Partito Democratico sulle apparizioni televisive, sul bilancino. Siccome questa sera era prevista un'intervista di Bersani al TG1 ed adesso Renzi ne ha ottenuto un altro, ovviamente gli altri chiedono uguale trattamento, no? Perché c'è la par condicio anche lì? Non lo so, guarda, sono delle discussioni che mi mettono una tristezza pazzesca. Per tirarmi su da questa tristezza del bilancino dell'intervista al TG1 del Partito Democratico, dei leader, cioè degli sfidanti, voglio risentire gli insulti che ci ha rivolto Sgarbi. Ah, non li voglio risentire. Sì. Quando la sera quei due tangheri, quei due minorati di Crociani e di Parenzo, cioè dei poveri deficienti, sarebbero quei miei simpaticissimi colleghi che fanno la zanzara. Sì, quei due dementi imbecilli, quei due poveretti. Allora, abbiamo con noi Alessandro Proto, immobiliarista, finanziere, un po' nei guai, anche se lui dice di no, con questa storia delle indagini. Per truffe e aggiotaggio, però insomma, non è di questo che vogliamo parlare. Lui ci ha confermato di volersi candidare alla, alla guida del PDL e dunque anche alla guida del paese, nonostante quello che ha detto Alfano oggi, anzi non gliene frega nulla di quello che ha detto Alfano. Scusi, Proto, non capisco. No, ma da questo punto di vista, però io devo dire che ha ragione, al di là della temerarietà e della follia, tra virgolette, di questa candidatura e di altre candidature, ma come si fa a dire una cosa del genere? Alfano o lo dice per tutto il partito, oppure non è che lo riserva i candidati indagati, che vuol dire? Hai il partito pieno di indagati e condannati, lo stesso Berlusconi ha condanne, eccetera. Vuol dire che sta lanciando un tema per la campagna e sarà il suo tema delle primarie, evidentemente, giusto? Finalmente. Scusi, ma perché non la lei adesso per puntiglio magari vuole rimanere, Prodo, ma perché non dice esplicitamente, ma l'ha già detto in realtà, che queste primarie ormai sono una buffonata e si ritira pure lei? No, io ho detto che queste primarie sono una buffonata, è vero, ma ce ne accorgiamo non giorno dopo giorno, ora dopo ora, quindi e ora dopo ora peggiorano le cose. Lei però è perfetto come candidato del PDL, perché ha già detto di essere perseguitato per questa storia della cosa, no? È vero, ascolti, io ho formalizzato e ho detto che avevo raggiunto le 10.000 firme dopo un'ora esatta, sì, che ho detto che di aver raggiunto le 10.000 firme. Su tutti i giornali e agenzie di stampa era uscita questa cosa che ero indagato per magari indagavano da tempo, Proto. Ed è uscito dopo un'ora che io ho detto che avevo raggiunto le 10.000 firme. Allora, tenga presente che io non ho mai ricevuto nessun avviso di garanzia, non sono mai stato sentito da nessun PM, non sono mai avuto niente. Ma io, guardi, se io... Scusi, dica l'altra frase magica. Dopo queste dichiarazioni di Alfano, io spero di essere indagato. Perché? Ma lo spero, ma perché perlomeno non si presenta lui. No, forse non ha capito. No, magari guardi, ci sarà questo comitato dei garanti che la estromette. Non ho capito che cosa ha detto, ma sto comitato di garanti, ma deve dire chi è questo comitato di garanti. Allora, le primarie del PDL le hanno fatte per fare in modo che alle primarie partecipassero due persone al massimo. Sì, per far vincere. Il regolamento delle primarie, però, è una cosa assurda che è stato tirato fuori 3 settimane fa, che prevede dei parametri, delle condizioni che sono assolutamente irraggiungibili. Ma lei, oltre a essere perseguitato, tiri fuori l'altra parolina magica. C'è una sorta di giustizia orologeria, la magistratura orologeria o no? Sì, ma questa volta non, secondo me la magistratura orologeria è stata tirata fuori da chi? PDL. Cioè, scusi, Alfano ha detto ai giudici di indagarla? Ma non lo so che cosa sia successo. Io le dico solo una cosa, ascolti, io quello che le posso dire è questo. Però è perfetto come candidato. Il PDL non esiste più. Un partito che non esiste più, d'accordo? E allora perché si candida lei? Mi candido perché... Per fare casino, diciamo la verità, per fare un po' di casino. No, non per fare casino, per cercare di fare qualcosa di buono e di positivo. Poi, ma Berlusconi ci ha parlato... All'interno del PDL, il capo di sto partito, chiamiamolo come vogliamo, è sempre e comunque Berlusconi. Sì. Perfetto, ok. Ma se fa Forza Italia, se fa Forza Italia, come sembra, lei va con Berlusconi? Ma assolutamente sì. Ma perché questo disprezzo? Quello che non si capisce è perché Berlusconi non si esprima. Ma lei ci ha parlato, no? Ci ha parlato negli ultimi giorni, Proto? Ma non... Questo qui è... Se ci avessi parlato. Ma io quello che voglio dire... No, è anche per la casa, no? Anche per la questione della casa, se gliel'ha venduta o no. Non è possibile però che un partito... Che si passi da Berlusconi ad Alfano. Perché? Mi dia un giudizio su Alfano. Berlusconi mi dia un giudizio tranchant su Alfano. Un giudizio tranchant su Alfano. Alla Proto. No, un giudizio tranchant su Alfano non può fare quelle dichiarazioni. Quello l'abbiamo non detto. Non può dire, perché Berlusconi è condannato e viene a dire che se si candida qualcuno che è indagato, è come se io domani mattina vado da un giudice o da qualcuno, sporgo una querela, una denuncia contro Alfano perché ha detto qualcosa e Alfano è indagato. Scusi un attimo Proto, ma lei alle primarie del centro-sinistra per chi voterebbe domenica? Ma io, guardi, non voterei per ma il centro-sinistra, ma neanche tra quei candidati le piace di più o no? Guardi, tra le primarie del centro-sinistra voterei Alfano. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai. mi ha beccato, ai ai mi ha beccato, gratta gratta ma peggio è. Alla fine tutti e cinque i candidati alle primarie intervistati da TG1 questa sera, hai capito? Beh, TG1 istituzionale, giusto, benissimo, grande, no, scelta, era partita, Rai, grande scelta. Aspetta, ma smettila, era partita, era partita, ma smettila con queste buffonate da leccapiedi. Era partita semplicemente con che cosa? Era partita con una intervista a Bersani, poi gli altri si sono incazzati. Non posso dirti, veramente detto con grande rispetto. No, non me ne frega niente, voglio sentire i titoli. Ma voglio... chi se ne frega? Sì, assolutamente, chi se ne frega, ma l'abbiamo detto prima anche noi. Modestamente l'ho detto prima anch'io, cioè queste baruffe per lo strapuntino, queste baruffe per lo strapuntino. È strano però che non ci abbiano pensato prima, no? I signori del TG1 potevano pensarci anche prima, era chiaro che sarebbe successo un casino. Se dai un'intervista solamente a Bersani, gli altri si incazzano, no? Comunque io voglio dirti solo una cosa prima del TG3, che la notizia di questi giorni, che noi abbiamo molto sottovalutato, colpevole devo dire anch'io, che in genere non porto grandi notizie, ma questa volta te la voglio segnalare, riguarda il ministro del turismo delle isole Baleari, il signor Carlos Delgado, che è nei guai perché si è fatto fotografare con in testa i testicoli di un cervo morto. Titoli del TG3, Parlamento corrotti e corruttori, e questo per un, siccome si è fatto fotografare, la cosa è gravissima. Cioè, capisci che le isole Baleari sono più avanti rispetto a noi? C'è un ministro delle isole Baleari solo perché si è fatto fotografare con in testa i testicoli di un cervo morto e nei guai, hai capito? Beh, negli altri paesi? Certo, voglio dire... hai capito o no? Ma è vera la notizia! Sì, è lo so. Titolo Baleari del TG3. Baleari, subito! Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. L'Europa non trova l'accordo sul bilancio, meglio il rinvio che rotture drammatiche. Draghi, la BCE ha evitato il disastro dell'Europa. Monti da Bruxelles sulle parole di Napolitano, nessun commento sul vertice, no ad accordi al ribasso per l'Italia, più rispetto che nel 2005. Alfano sulle primarie del PDL, se ci sono indagati io mi ritiro, nessun dissenso con Berlusconi che scherza coi giornalisti, oggi parlo solo del Milan. Ultime battute della campagna elettorale dei candidati per le primarie del centro-sinistra, polemica sulla presenza in TV. Tel Aviv non meno pericolosa di Roma, dice il presidente della comunità ebraica Pacifici dopo il raid degli ultra, inaccettabile, replica il prefetto. Domani a Roma tornano gli studenti e gli insegnanti, preoccupazione dopo gli scontri con la polizia di 10 giorni fa. Domenica giornata mondiale contro la violenza sulle donne, al TG3 la storia di Stefania che ha trovato il coraggio di denunciare il marito. Beh, si può dire tranquillamente, lo puoi dire anche tu, che sei ebreo, Parenzo, si può dire tranquillamente che in questa polemica tra il presidente della comunità ebraica Pacifici e il prefetto, ha ragione il prefetto, cioè non si può paragonare Roma a Tel Aviv, lì piovono le bombe ogni tanto per fortuna, o comunque ci sono attentati molto gravi, qui si trattasi di qualche deficiente che o manifesta o va a picchiare presunti ebrei in un bar, mi pare evidente, no? L'esagerazione del signor Pacifici. Non c'entra essere ebrei o non ebrei, buddisti, atei, agnostici, ha esagerato del turismo, anche ministri del turismo delle Baleari. Signor Pacifici ha esagerato, credo, basta. Che non sono d'accordo con quello che dice Pacifici, ma voglio dire, beh, basta, ma dillo apertamente, dillo, abbi il coraggio di dirlo. Pacifici ha detto una stupidaggine, un'esagerazione, dillo. Ma no, una stupidaggine. Ma perché sei così? Perché sei sempre così trattenuto quando si parla di queste cose? Una stupidaggine sesquipedale. Dopodiché, se io penso alla civiltà, no, non mettere Baleari, ma non mettere ma, no, perché non c'entra niente. Alla civiltà delle isole Baleari, dove un ministro fotografato perché ci aveva in testa i testicoli di un cervo morto, costretto a dimettersi, e da noi ministri che hanno case a loro insaputa. Beh, amici, viva le Baleari! Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. È evidente che è la Zanzara, non può essere nulla. Giorgio da Savona, Giorgio da Savona, buonasera, chiamatemi Sgarbi, voglio subito un commento a caldo, sul ritiro dalle primarie. Sì, voglio anche fare il paragone con le Baleari, con Sgarbi, Giorgio, dica. Per ricordargli tutti gli indagati che ci sono lì, e nelle Baleari uno si dimette. Giorgio, dica. Buonasera Cruciani, salve. Allora, volevo esprimere qualche opinione un po' controcoro, comunque come stigmatizzano. Contro? Controcorrente. Ah, controcorrente, controcorra, sì. Avevo capito. No, no, sì. Allora? Niente, riguarda essenzialmente la politica europea che sta penalizzando comunque il nostro paese. Vabbè, discorso lungo, come lo sintetizziamo? Non ho tempo per fare una dissertazione sulla politica europea, abbia pazienza. Bene, allora parliamo di due. Ho chiamato ieri, ho scritto un messaggio che volevo chiedere a Crosetto cosa ne pensasse di MES e Fiscal Compact. Parolacce. Parolacce, sì, esatto, ha ragione, sono tutti parolacce. Mi vuole sintetizzare il suo intervento in una frase? Ma semplicemente non si ritrova nel panorama e nell'offerta politica partitica attuale, quella che andremo poi a votare ad aprile, non si ritrova una chiarezza per quanto riguarda gli intenti in politica comunitaria. Va bene, Giorgio, mi ha già scocciato lei. Maurizio dalla provincia di Treviso, non si capisce nulla, perché uno non deve fare un intervento rapido, veloce, sintetico, efficace? No, la politica europea, non si capisce niente. Vabbè. Maurizio, altre trasmissioni, di queste discussioni, altre trasmissioni. Maurizio, provincia di Treviso. Salve, io sono una guardia giurata, e io sono indagato prima di fare la domanda di assunzione. Per legge non posso neanche farla. Se mi capita durante il lavoro, mi succede il finimondo. Bravo. Mi sequestrano il porto d'armi, devo consegnare l'arma, mi sospendo dal lavoro, fin quando poi non si arriva alla soluzione e si vedrà come va a finire. Ora, riguardo la dichiarazione di Alfano, mi sembra che sia una dichiarazione superflua, perché io non riesco a capire, lui dice che praticamente se ci sono degli indagati lui non si presenta. Ma a mio avviso che differenza c'è fra il mio lavoro e la legge che riguarda il mio lavoro? Però Maurizio, questo paragone non ha senso oggettivamente. No, non ha senso. Scusi, non ha senso. Non ha senso. Il mio paragone, cioè, al di là, io ho fatto questa domanda, sto facendo questa domanda a lei perché praticamente lei è un garantista. Ma non è che questo di essere garantista. A tagliarsi le vene. Un attimo solo. Ma che garantista? Comunque guarda, questo non risponde. Vabbè, poi risponderà. Non risponde, mi sa che cosa sta facendo di importante, sta insultando qualcuno o candidandosi da qualche parte, figurati. Non è che faccia tanto diverso. Allora Maurizio, non ho capito. Maurizio Landini? Sì. No, ma io facevo un ragionamento, non volevo entrare nel merito perché un semplice cittadino impiegato come guardia giurata come lei viene sospeso dal lavoro, se è indagato, poi bisogna vedere perché cosa è indagato, non penso che se... No, io le faccio un esempio, se sono indagato, faccio un esempio anche per un assegno a vuoto, attenzione. Lei non sa quello che mi capita a me. Ho capito, ma non c'entra nulla. A me mi finisce proprio la vita. Ma giustamente, attenzione, io non è che sto criticando questo discorso. Ma a parte che bisogna verificare se è davvero così. Nessun però. No, è così. Sì, come va bene. Allora, il punto... Però. Ho capito, ma lasciamo perdere però. Ma non dico una cosa, penso che la sappia. Ma ragazzi, ma vogliamo... Siamo seri. Se tu sei indagato, non sei stato condannato. È una cosa a garanzia delle persone essere indagati. Parenzo, ti entra dentro il cervello questa cosa semplice oppure no? Se un bidello chiede di fare un concorso in una scuola pubblica, provincia di Campobasso, carichi pendenti, ma non c'entra niente i carichi pendenti con l'essere indagato. La vita di un bidello in questo paese vale meno di quella di un Denis Verdini qualunque. Capirlo, devi cominciare a avere il coraggio di dirlo. Paolo, sei un imbecille. Paolo dalla provincia di Campobasso, un bidello con carichi pendenti vale meno di quella di un legislatore indagato. Va bene, Paolo dalla provincia di Campobasso. Ma tanto non ti entra nel cervello. Per cui cos'è che deve entrare, scusami? Essere indagati non significa nulla. Mi fai arrabbiare. Non significa niente, lo sai benissimo. Non me ne frega nulla di questo discorso. È una cosa molto diversa. E poi in ogni caso, se sei indagato puoi fare tranquillamente un concorso. Lo sai benissimo, se sei indagato. Paolo dalla provincia di Campobasso. E poi comunque sono cose ridicole. Paolo dalla provincia di Campobasso, dica. Scusa. Pronto? Senti, io stavo parlando di un'altra cosa, del discorso discorso di Alfano, che è un altro discorso rispetto al fatto tutti gli indagati la possono tua fare. Golf. Tu vai. Hai tre golf a casa, perché so che hai una Paolo cameriera, dalla provincia un di Campobasso, dica, mi fa, metta a tacere questo minus Abens. Cruciani? Sì. Mi sente? Sì. Ah, salve, buonasera. No, io volevo solamente dire una cosa. Io ho sempre votato centrodestra. Sì. Ma mi sembra un terrino di questi qua, una pagliacciata immensa. Guardi. Perché? Perché io non riesco a capire, guardi. Non riesco proprio a... Non li riesco. Ma dov'è la pagliacciata? Mi spieghi però dov'è la pagliacciata? Una pagliacciata, ma forse lei si rende conto di che pagliacciata? No, ma io lo so, e lo stiamo dicendo da 20 giorni, per cui se lei però mi spiega i suoi motivi, forse è meglio, no? Ah, ma se lei mi fa parlare glielo dico subito. Me lo dica. Sono tanti pagliacci. Vabbè, arriva questi pagliacci. Comandati da Berlusconi, questo è. Il centrodestra ormai non esiste più. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E laica, e laica, la matriosca. Beh, si può dire tutto della signora Fornero, e sono state dette tante cose, soprattutto in negativo, caro Parenzo, ma io l'ho appoggiata sulla riforma delle pensioni, penso che dal punto di vista proprio dei provvedimenti non sia stato nemmeno un pessimo ministro, certo. La cosa da dimenticare è la comunicazione politica. Ecco, in comunicazione politica le darei un bel 2, un bel 2. Oggi è riuscita a dire, ieri, oggi, non mi ricordo, che lei in realtà non era preparata a fare il ministro. Ma come? Non puoi dire dopo un anno che non eri preparata all'inizio a fare il ministro? Di cosa vi parlo? Beh, di questa mia esperienza di ministro. È cominciata un anno fa ed è stata molto intensa. Posso anche dirlo molto tranquillamente, io ho accettato di fare il ministro non avendone nessuna preparazione. L'ho accettato perché me l'ha chiesto Mario Monti, una persona che io ho sempre stimato nella mia vita professionale. Sì, ce la voglio, rossa. Non ero preparata a fare il ministro. Beh, l'ultima delle uscite, delle sortite del ministro Fornero, del ministro Fornero. Per esempio, no? Te le ricordi, no? Ciusi. Beh, Ciusi, certo, Ciusi, lo sappiamo. La Fornero che piange, tutto partì da lì, La Frignero venne ribattezzata da Dago Spia, la Frignero. Abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. E giù i pianti, all'epoca le vennero anche perdonati questi pianti, no? Ti ricordi? Beh, ma quello era anche una cosa, come dire... Poi c'era la gioia nell'orto, la lotta con i giornalisti, recentissima, no? Questo, l'inseguimento col signor Roma... Lei che non vuole rispondere, il signor Roma delle Iene, lei che non vuole rispondere, eccetera, eccetera. Il pianto era anche bello, perché era un pianto. Senti, bello, la Biancofiore parla di Apple Generation. Se ne inventa una al giorno, la Apple Generation, è stupenda questa. Possiamo dire che sono della Berlusconi Generation e della Apple Generation, ma è proprio per questo dico stay hungry, stay foolish, e siate andiamo. Affamate e siate folli. Brunetta contro Santoro lo risentiamo. Quanto guadagna? Credo che il Ministero della Salute dovrebbe utilizzare la signora Biancofiore come antidepressivo. Cioè, per quei pazienti, io un po' ne so, che soffrono di depressione, il Ministero della Salute dovrebbe predisporre delle cassette, degli audio, se voglio li forniamo noi in outsourcing come Zanzara, della signora Biancofiore, e anziché dare pastiglie, cose, gli danno degli auricolari con tutti gli interventi della Biancofiore. È un antidepressivo naturale. Potremmo fare anche un CD di Biancofiore. Una volta volevamo farlo su Borghezio, adesso potremmo farlo per la Biancofiore. Sì, si può fare, certo. Giulia, e quanto guadagna lei, scusi, dottore? Quanto guadagna lei? Ma quest'anno, l'anno scorso? Quest'anno. L'anno scorso, quest'anno, sono stato lontanissimo dalla cifra quest'anno, che ha detto lei. E quest'anno, da un'azienda non lo so, in perdita la faccio come vedere. Sette, da un'azienda in perdita come la 7. Quale azienda in perdita? La 7 in perdita. Ma il nostro programma non è in perdita per niente. Ma noi siamo un programma indipendente, io non sono un dipendente della 7. Lei è l'unico che non lo sa in tutta Italia, non dipendo dalla 7. Non voglio più mangiare pane gulag. Gulele! E quanto guadagna? E quest'anno? Quest'anno com'è? E quanto guadagno? E la legge l'ho fatta io sulla trasparenza. Io, Renato Brunetta. Quanto guadagno? Santoro. E lo dica. Renzi, Rosi Bindi soffre quando vede la Moretti in TV. Questa una battuta un po' sulla bellezza della Moretti e sugli anni della Bindi, credo, Renzi. Un po' di ricambio ha iniziato ad esserci, ecco, credo che questa cosa faccia soffrire Rosi tutte le volte che la Moretti va in TV, ovviamente, per Rosi e per quelle come lei, questo è un problema, allora cerca la rissa personale, io non voglio rissa. Simone dalla provincia di Pesaro, buonasera Simone, buonasera. Buonasera, grazie per darmi la possibilità di dire. Queste due cose. Una, volevo dire che voi anche ieri sera avete detto che Berlusconi, come dice il direttore di Rai News, che poi è un dipendente della collettività, il ventennio berlusconiano. Berlusconi ha governato 8 anni e mezzo, dal 94. Gli altri anni ne ha governati 2 Dini, 5 Prodi con Amato e D'Alema e altri 2 Prodi. Quindi questo è un dato che io non so perché passa questo messaggio. Poi l'altra cosa che volevo dire... Scusi, qual è il messaggio che lei, qual è il messaggio che lei contesta? Che Berlusconi ha governato per 20 anni? Anche ieri avete detto che 20 anni che ha governato Berlusconi. No, io non ho mai detto una cosa del genere. Sì, sì, io ieri sentivo la trasmissione, voi passa questo, molta gente e lo dice, il direttore di Rai News dice il ventennio berlusconiano. Vabbè, ma ventennio non è inteso, ventennio... 8 anni e mezzo, poi lo può aver fatto bene, male, 8 anni e mezzo. No. Ma ventennio e anche nel 2008 quanto è caduto Prodi, ma ventennio è inteso in un altro modo, ventennio è inteso in un altro modo, ventennio sì, nel senso non è inteso, ma inteso male, cioè poi io non difendo quello che ha fatto, dico solo che i numeri sono i numeri. E l'altra cosa che volevo dire vale sia per le primarie del PD e per le primarie del PDL, no? Siccome so che mi sembra di aver capito che si paga 2 euro per le primarie del PD, non so se per il PDL si paga, ma penso anche per quelle. Sì, si pagherà anche per le primarie del PDL, sì. Allora? Si riempiono sempre la bocca con l'evasione fiscale, l'ultima volta hanno votato in 4 milioni le primarie del PD, non so se rilasciano ricevute, perché un conto è parlarne. Vabbè, ma queste sono stronzate, su, dai. Accertare. Inutile. Sì, Simone, inutile. Sono polemiche ridicole, sono stronzate, io lo dico in maniera molto franca. Evasione fiscale, che vuol dire? Evasione fiscale non è che la si fa con i soldi delle primarie, i soldi delle primarie verranno messi nella cassa del partito. Ma poi viene data una ricevuta, ma perché questo qui non sa? Viene data una ricevuta, quando vai lì ti danno una ricevuta. Sì, poi c'è stata una polemica negli anni passati sul numero dei partecipanti alle primarie, i famosi elenchi, i famosi elenchi, ma questo non significa nulla con il lobolo che bisogna versare. Gaetano da Napoli, però non fare sempre il difensore del partito preso a spada tratta del Partito Democratico. No, ho detto che non ve ne è bisogno, oggi, non ve ne è bisogno. Oggi, no, ma infatti oggi adoro Alfano, ho detto, sì, ad esempio. Gaetano da Napoli. Gaetano da Napoli, buonasera. Pronto? Proprio buonasera. Quando ha detto una stupidaggine, pensate. Sto Cruciani, buonasera, mi sente? Sì. La saluto a lei, Parenzo. Vada. Volevo dire solo una cosa, che praticamente non ritengo giusto che bisogna pagare 2 euro per le primarie, nonostante tutti i soldi che già si prendono i partiti. È volontario. Gaetano, guardi, si può discutere a lungo su questa cosa, però se uno vuole va a votare per le primarie, altrimenti non ce va e non dai 2 euro, non mi sembra che la obbligano. No, io non ci vado, perché bisogna pagare, non ci vado. E vabbè, lei decide di non andarci perché bisogna pagare. Glieli do io, guardi. È legittimo che lei decida di non andare perché si paga, è legittimo che un partito dica vuoi partecipare alle primarie, dammi 2 euro perché mi servono per l'organizzazione. Poi uno può dire avete i soldi del finanziamento pubblico, è vero. Ce l'hanno tutti i soldi. Dopodiché no? Poi non è obbligo, cioè qui non sono obblighi di legge. Cioè, ah, no, lo so che e non allora è se lei non va non succede nulla. È una preferenza che uno vorrebbe dare, però non dà per questo fatto qua. Va bene, grazie. Gianni da Varese, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. A prescindere che io ritengo sia giusto che gli elettori del PDL paghino 2 euro per votare, io mi riferisco a quello che ieri ha detto la Meloni. La Meloni ieri ha detto spero che Alfano corregga, che i sedicenni e i diciassettenni devono pagare 12 euro anziché 2. Ma io chiedo a lei un'opinione, ma non era meglio che le regole delle primarie del PDL le avesse fatte Berlusconi? Perché il PDL c'è Berlusconi, tra virgolette, super partes, cioè, lasciamo che quelli del PD si scannino che candidato Bersani... Gianni, io non ho capito nulla di quello che lei ha detto, scusi, lei che cosa è che contesta? Io contesto, cioè nel senso che era, faceva più bella figura al PDL se Berlusconi faceva le regole delle primarie. Ma non lo so, perché doveva fare solo Berlusconi le regole delle primarie, scusi? Perché nel PD vediamo che le fa Bersani e Bersani... Ma è non candidato. È vero che le fa solo Bersani, in realtà sì, c'è una decisione che è stata contestata da Renzi su alcuni punti, e allora? Beh, però Bersani è il segretario, quindi deve fare per forza lui. Invece Gianni, Berlusconi... dove vuole arrivare con questo ragionamento? Me lo spiega? Che secondo me si stava sottovalutando il ruolo di Berlusconi. Un conto è dire che si non sta sottovalutando però... il ruolo di Berlusconi. Bene, ma che ragionamento sì, è si sta sottovalutando il ruolo di Berlusconi? Non ho capito. Doveva che vuol dire? Lui le regole. Doveva fare lui le regole delle primarie. Ma se non le vuole fare le primarie Berlusconi, che regole deve fare? Ma le regole, infatti, non ma non le vuole fare, regole. Non le vuole le primarie Berlusconi. Ma li leggi i giornali, la sente la radio, la sente la televisione? Cioè certo, si informano? E allora Berlusconi le primarie non le vorrebbe. Non e l'ha detto. Volevo dire che... Secondo me a livello di comunicazione la Meloni nel PDL e Renzi nel PD stanno dando la biada a tutti gli altri di gran lunga. La biada, bene. Grazie. Meris da Bologna. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Dica. Io ho chiedo a voi due, sì, appello degli elettori dell'Italia bene comune, sì, per votare le primarie. Bisogna sottoscrivere sta... È improponibile. Io ho provato cosa? A leggere... Bisogna sottoscrivere cosa? Scusi. Bisogna sottoscrivere questo appello. Vabbè, è un appello generico, una no, carta degli intenti. Non mi dicono che devo... Ma scusi, lei è un elettore, lei è un'elettrice di centrosinistra, sì o no? Io sono un'elettrice, dipende da chi va su. Se va su Vendola no, se va su Renzi sì. Ma questo è interessante, insomma, come cosa. Io non sono a priori. Però scusi un attimo, Meris, ma lei che gliene frega? Sottoscrivo quella cosa, che tanto non conta nulla e non serve a nulla la sottoscrizione di quella roba. Ma no? E allora via. L'hanno studiata tutta. Per... Vabbè, ma lo fanno sempre, lei si deve sottoscrivere una sì, sorta di... Sì, però mi sembra che uno deve, a priori, deve... dice esattamente sostenere il centro-sinistra e il candidato scelto dalle primarie, ma mica è vero, tra uno e l'altro c'è un abisso. Ma d'accordo, io sono d'accordo con lei, Meris, dopodiché sottoscriva quella roba lì e vada a votare chi vuole, tanto non è che... E poi un'altra cosa, io sono di Cervia, adesso sono a Bologna e non posso andare a votare. Non ho capito, scusi. Non si può andare a votare... Perché bisogna andare dove hai... lo so, quello è un problema, sì, l'abbiamo... E quello è un problema, così io non posso andare a votare. Nemmeno perché... io, infatti, vabbè, è un problema. Però, voglio dire... Però succede anche alle elezioni normali, che uno si trova fuori sì, sede sì, e non può andare a votare. Va bene, questo pienamente d'accordo. Quello che è... io mi chiedo chi è stato quel genio sì, che ha fatto... Il fatto che bisogna sottoscrivere questo testo, che è una costante. Scusi Meris, però abbiamo già dato su questo, abbiamo già detto su questo che gliene frega, okay, lo sottoscriva e vada a votare. Se vuole andare al secondo turno, vada al secondo turno. Non... Sì, dipende. Povero Renzi, bisogna aiutarlo. Va bene, Marco, provincia di Arezzo, buonasera. Sì, buonasera. Senta, volevo formulare un semplice quesito. Premesso che i senatori a vita sono sempre stati dei personaggi illustri che si sono distinti nelle arti, nella scienza e quant'altro, oppure sono dei personaggi come per esempio Andreotti che era difficile smuovere dal seggiolone, no? Ecco, il nostro attuale Presidente del Consiglio, un domani che tornerà a fare il professore, noi si deve continuare a pagargli lo stipendio da senatore a vita o ci pensa Napolitano che inopinatamente, senza alcun merito, l'ha nominato in questa carica? Guardi, non credo che il senatore a vita Monti possa prendere un altro stipendio come rettore della Bocconi da senatore a vita, non lo so, insomma, Marco, fosse per me i senatori a vita andrebbero aboliti, per cui, insomma, lei mi sembra ispirato da un grosso pregiudizio contro Monti. Pronto? Pronto. Vittorio? Oh. Eccoci qui, come stai? Dove eri? Sto benissimo. Oh, finalmente. Siamo i due cretini. Siamo i due cretini. Com'è che ci hai detto? Siamo da... Siamo due persone intelligenti, brave. Beh, noi siamo anche ogni tanto siamo degli imbecilli, dei cialtroni, ogni tanto siamo diciamo anche... No, quello solo da quando ho visto che vi ha insultato Volpe Pasini vi ho riscattato. Scusa un attimo, però parliamo male di Alfano. Io oggi ho parlato malissimo di Alfano, malissimo. No, ma Alfano siamo fuori dalle grazie di Dio. Pensa tra l'altro che esiste una depensante che si chiama Dorina Bianchi. Sì. Che dice: Vittorio Sgarbi o non ricorda o in malafede. Il segretario Alfano ha sempre detto che non ci sarebbero state primarie se fosse sceso in campo il presidente Berlusconi. Ma che cazzo dice? Non è che è un UFO. Cioè la condizione è evidente che se c'era Berlusconi Alfano andava al cesso, perché certo, al cesso deve andare. Vabbè. Ma la condizione di non candidarsi se ci sono inquisiti, sì, è un principio che vale anche per Berlusconi, che non è un certo, UFO. Certo. Berlusconi è condannato e inquisito, che poi sia innocente o meno non me ne frega niente, giusto, giusto, il principio vale anche per lui. Ma questa poverina è una depensante, non le rispondo neanche, rispondo ma lascia perdere a Dorina Bianchi, lascia perdere. Si chiama Dorina Bianchi, ha un cervellino da patata, che è evidente che l'errore di Berlusconi, Berlusconi doveva fare così. Comunque vada a finire, sì, io non farò il premier, sì, ma sarò il capo del mio partito, come sì, Di Pietro lo vede. Di Pietro è nella merda, ma rimane capo del suo partito. Sì, certo. Diventi capo del tuo partito, mandi a fare in culo e commissari con te stesso Alfano, sì, perché uno che dice quelle eresie, avendo Verdini, Scajola, Cosentino, Dell'Utri, il suo fratello, il fratello è inquisito per false lauree, sì, si vergogna e si dimetta, questo imbecille. Ma l'Alfano non è un essere umano, è un idiota, ecco, un coglione, ecco, poi mi denunci, si vergogni, ecco, non è del PDL, è dell'IDV, è peggio di Pietro. Stai semplicemente perché... Per la prima no, ha ragione Vittorio, ha ragione Vittorio. Sta rosicando. No, ha ragione. Rosica perché... Non rosicare, cretino, non rosico nulla. Ha ragione Vittorio. Che poteva fare una cosa da solo. E sono incazzato, mi sono iscritto alle primarie altro che per disperazione. Ma quando uno mi viene a dire che non vuole gli inquisiti, voglio essere inquisito anch'io. Bravo. Mi hai fatto i coglioni. Non c'è niente a che fare con quello. Ma sicuramente sarebbe allora, per la prima volta. Alfano le primarie sulla cultura con una candidata che non è neanche laureata, si lauri la Meloni, vada a scuola. Vabbè, che c'entra adesso, che c'entra la Meloni adesso, scusa, che la Meloni si è accodata, si è accodata su questa cosa, no, sì, non so se si è accodata, sì, dico, sì, ha detto che Alfano ha fatto bene, gente, il livello politico di Alfano è inesistente, sì. Berlusconi è colpevole di averlo nominato per azione e la Meloni è una candidata non laureata. Ora, vabbè, questo che c'entra? Molti sia monti perché ha studiato, vadano a studiare invece di fare candidato alle primarie. Vabbè, adesso... Io non posso stare a fianco di questi minus abentes. Ma pure la Meloni è minus abens. Pure la Meloni minus abens. No, si sì, dice minus abentes perché sono più di uno, ma minus abens è uno solo. È inutile farvi lezioni a voi. Il problema di fondo è che no, io sono candidato per combattere, ma per disperazione. Perché dopo che abbiamo lavorato all'infinito per fare il partito della rivoluzione, fare il 2%? Sì. Con questa legge lo fai il 2%. Allora Samori la smetta di fare il fenomeno che deve fare pagare all'Alfano, non so chi, e non fu candidato la volta scorsa. Il problema è suo, non lo sapete perché non sapete quasi niente. No, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Aveva avuto la promessa di essere candidato come vicepresidente dei circoli, eccetera, quindi era notorio che lui era in quell'ambito, non l'hanno candidato e adesso si vendica con le primarie. Ma non mi pare una gran vendetta. Allora lui costretto me a fare questa azione di rivalsa e di disperazione di candidarmi, che era un'operazione disperata, non di rosicare che quell'altro mezzo coglione che hai lì vicino, che deve sempre dire delle cagate perché non ha mai avuto un'idea in zucca. No, però scusami Vittorio, io sono d'accordo con te, naturalmente non nei termini, però sono d'accordo sul fatto che tutta la storia politica di Alfano, tutta la storia politica di Alfano è in totale contraddizione con quello che ha detto oggi. Lui ha mai sconfessato Cosentino? Ha mai sconfessato Scajola? Mai, e adesso mai. Lo farà. Nutri? Ha mai sconfessato Berlusconi? Ora si vergogni! Ha mai sconfessato suo fratello? Si vergogni! Ma è così un po', Parenzo? Ma io non posso competere per vincere o per perdere. Ma non competere che avresti perso, tra l'altro. Eh? Avresti perso clamorosamente un'altra volta. Pensi come tu, hai perso... imbecille. Lo pensi ma tu. Ma che ne sai? Lo pensi tu. Perché sai, fai i voti con i call center, la popolarità esiste. Ma quali è call molto center? Chiara. Allora, ma quali vanno call a votare center? Solo gli apparati, ma se va un cittadino normale, voterà qualcuno che conosce, di cui conosce la scusa, storia. Ma allora queste... Ma queste... se la gente votava Sgarbi alle primarie che gira col braccio rotto come una Madonna pellegrina per tutti i talk show, dai, su. Ma vai a fare in culo! No, fermo, dai. Vittorio, stai calmo. Vittorio, ti voglio chiedere di Alfano. Vittorio, ti voglio chiedere di Alfano. Io col braccio rotto perché voglio stare fermo. Ma stai tranquillo, ti voglio chiedere... Va bene, ti voglio chiedere di Alfano, stai tranquillo, ti voglio chiedere di Alfano. Adesso lasciamo perdere Parenzo. Ma voglio... Parenzo è solo un povero coglione, una pulce, un pinocchio, va bene, una piattola. Va bene, non esagerare. Stai in mezzo ai tuoi coglioni. Va bene, non esagerare, ti braccio voglio... rotto, no, il braccio rotto deve stare in casa? Vado col braccio rotto dovunque, imbecille! Calmo, allora, ti voglio chiedere una cosa di Alfano. Perché quest'uscita, secondo te? Me lo spieghi? No, l'uscita è semplice. Siccome uno ha un'indagine per sì. non so quale, che dice che è già superata, per verifica o spionaggio dei conti bancari, sarà una cretinata, perché sì, molto spesso sì. le indagini finiscono con la soluzione. Non lo sa Parenzo, ma è così. Anche Tortora. Ma glielo ho detto anche oggi, io l'ho detto mille volte, io l'ho detto mille volte oggi. Un povero cretino, quindi c'è solo delle cretinate, quella del braccio la pagherà perché col braccio gli spacco la faccia. Allora, questa cosa qua, che non c'entra niente, già so che l'aveva detta con Toscani, se sì, uno sì. non è gravemente malato, non ha bisogno di stare in casa a fare il finto. Va bene, dai, archiviamo sta cosa, dai, archiviamo allora, sta cosa. Allora, detto questo all'imbecille, l'altra cosa... Comunque non ti mai camminare. C'è uno che poteva fare delle cose, non so con quale quantità e quale impegno, ma poteva probabilmente investire un po' di denaro, che è sempre utile, perché per quella cosa di Chianciano presuppone del denaro. Sì. Cioè, lui se n'è uscito per far fuori Samorì? Questa uscita è per far fuori Samorì, l'uscita di Alfano di oggi? Samorì, partendo però da Proto. Sì, da Proto, sì. Se Proto manda le firme ed è indagato, allora io, ho inquisito, partecipo da Proto, volevo estendere Samorì, il quale però gli avrebbe risposto, perché c'ha la fizza delle primarie, che lui ha superato quella vicenda giudiziaria. Ma è evidentemente partita dalla questione di Proto di ieri, che non so cosa significhi, ma Proto sarà un bravo ragazzo e certamente un berlusconiano così, di fanatismo. Ma sì, l'abbiamo intervistato anche prima, l'abbiamo intervistato prima. E questa che infatti mi ha detto che votava me, guarda caso. Allora di cosa parla Parenzo? Cioè lui pensa che la mia popolarità sia calata. Ma no, ma lascia perdere questa cosa. Ho venduto 60.000 copie di un libro, imbecille. Però scusa, Vittorio, il problema allora, adesso questo, non è Parenzo. Il capo sostiene che la ragione per la quale lui ha dei problemi non è che voi siate liberi, ma che io dico una parolaccia, io vi riempio di parolacce, così dovete dimostrare che non potete più telefonarmi. Il nostro capo chi sarebbe, scusa? Uno di quelli, quello che ho visto l'altro giorno, che segue la trasmissione, uno del capo della direttore della vostra rete. Tamburini, che ha detto? Che ti ha detto? Che è la cosa che gli dispiace di più è che io dica le parolacce, queste cose qua, perché voi siete uomini liberi, ma io poi vi metto in questa situazione. Ah no, ma figurati. Vabbè, ma io sono contento, non dico più parole, me ne sbatto di tamburini, di qualunque cosa, di quello ma che no, dico. Ma dai, siccome adesso, non posso sopportare l'insinuazione degli stupidi. Vabbè, ma adesso lascia perdere i tamburini, che il direttore, se no dobbiamo difendere per forza delle fonti di tamburini. Che vuol dire? Mi piace moltissimo, mi fa schifo Parenzo, non ricordo come leccava il culo a me quando andavo alla Parenzo, sua tradizione, Parenzo. Ascolti, quel leccaculo, quel pompinaro. Un attimo, no. Eccoci qui con la notizia del giorno di politica, che riguarda non solo le primarie del centro-sinistra, ma questo caos nel centrodestra, con il ritiro di Vittorio Sgarbi dalla sua candidatura, con Alfano che ha pronunciato delle frasi che fino a qualche tempo fa erano praticamente impronunciabili nel PDL, cioè dire no ai candidati se sono indagati. Ma e allora tutti quelli che sono intorno ad Alfano, io ho detto all'inizio della trasmissione, Alfano ha intorno nel partito gente piena di problemi giudiziari, giusto o sbagliato che sia, qui non stiamo a giudicare. Allora, fammi che farà? Spiegare. Fammi no, ma spiegare. Spiega, che devi spiegare? In 30 secondi fammi spiegare. Cioè, Alfano lanciò già un anno fa il cosiddetto partito degli onesti. Ma è una stronzata il partito degli onesti. In cui disse delle cose chiare. Ora, todo cambia. Cioè, Alfano ha capito che questo è un problema e lo pone come questione politica. Ma va bene? Mai. E voglio dire a Sgarbi, che si arrabbia così tanto, quando va in giro nei suoi pellegrinaggi televisivi, dovrebbe ricordare il caso del ministro del turismo delle Baleari, che è finito nei guai per essersi fatto fotografare con dei testicoli di un cervo morto in testa. Ma che c'entra? Allora, mentre il ministro del turismo delle Baleari si dimette per dei testicoli di un cervo, qui c'è gente indagata e ma condannata non... per reati. Ma qui gravissimi. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando Vittorio, ma non capisce, non capisce. Io ho un braccio rotto, ma non è tale da impedirmi di andare in giro, perché non voglio fare il convalescente quando posso muovere. Vabbè, questo l'abbiamo detto, dai, l'abbiamo detto. La questione che sto dicendo di questo signore, di questo Alfano, è che non ha mai rinnegato né ha tolto il ruolo di coordinatore a Cosentino. Allora, il primo atto che devi fare non è invocare un'onestà surrettizia dei candidati, ma togliere gli incarichi a quelli che ce li hanno. Suo fratello è indagato per false lauree. Siamo sicuri? Nella sostanza siamo sicuri? Profonda, il partito con lui è passato dal 35 al 12 e quindi ha una responsabilità di sconfitte una dietro l'altra. Allora, il tema di fondo è che per eliminare non Crosetto o la Meloni, ma Samorì e Proto, sì, i quali potevano anche perdere, ma avrebbero, sì, rappresentato l'idea di presenze nuove, sì, ha inventato questa formula. Allora, a questo punto, è inutile fare il discorso astratto che finalmente si è reso conto. Ma Berlusconi come ha reagito? Comunque è morto. E la sostanza profonda è che il suo capo è stato condannato, ed è Berlusconi, ed è inquisito, sì, le cose che possono anche, io ritengo che i processi... Vabbè, però comunque è un dato di fatto, è un dato di fatto. Inquisito è, la parola inquisito vale anche per il processo Rubi. Allora, se l'unica cosa che può fare Berlusconi è commissariare il partito... Oggi, oggi... Oggi tornarne capo e fare le elezioni capo lui solo per il PDL. Il problema qual è? E con Alfano che ci facciamo? Sono profondamente disoneste, perché mentre quelle del PD indicano il vero candidato Presidente del Consiglio, queste indicano il candidato Presidente del Consiglio, appena ti allei con Casini, Montezemolo o la Lega, questi ti contestano il ruolo, quindi è una falsità ed è un falso in atto pubblico. Scusa, Berlusconi come ha reagito a questa frase di Alfano? Secondo te? Non lo so, perché non gli ho parlato ancora, ma non è che lui debba reagire o meno, si è già capito che non è d'accordo con questi pensanti e dementi. Il problema è che non sa come uscirne, perché chi ha creato Alfano? Lui. Chi ha creato la Meloni? Lui. Chi ha creato Crosetto? Lui. Beh, allora, Meloni, allora è chiaro che è difficile anche, gli ho detto, tu devi essere il capo dei tuoi, ma essendo nel capo, non stando fuori. Ma Crosetto adesso, pure Crosetto, che male ti ha fatto? Ha detto che è un ciccio. No, ma Crosetto, sto dicendo chiunque sia, cioè questi famosi combattenti sono combattenti che derivano dal fatto che lui non c'è, perché come dice la modesta Dorina Bianchi, se ci fosse lui non ci sarebbero loro. Allora torna tu lì e li hai eliminati, li rimetti al loro posto. Se tu invece li lasci dove vogliono andare e fai un partito tuo, cosa fai? Che una parte di quelli, Biancofiore, Biancogarofano, Bondi, vengono con te e tu depauperi quello che rimane del partito di almeno metà, quindi invece di aggiungere 2, 3, 4, 5 punti dividi il tuo 12 o 13 o 14 per 2, quindi lui è veramente di fronte a una assoluta incertezza del futuro. Però si decidesse, perché ormai... Vabbè, certo, ma cosa vuoi che si decida? Non si deciderà più, però la soluzione logica è riprendere il comando di cosa è casa sua, la cosa nuova. E con Alfano che ci fa Berlusconi? E niente, lo tiene come cameriere, cosa deve fare con il cameriere? Pulire i cessi, no? Quello che ha sempre fatto. Che deve fare? D'altra parte, l'unica cosa che fa, ecco perché andava bene... Solo a Parenzo può piacere Alfano comunque. Ma non è vero, a parte che piaccia, che non può piacere a chi vuole, basta che tenga... Il problema di fondo è che una volta che lui guida la cosa sua, quella che nasce, che è una cosa del genere Giannino, Samorì, tutto quello che ti pare, piaccia o non piaccia, di persone nuove che hanno alcune idee, ha una possibilità di sopravvivere, perché non dipende da Berlusconi, ma è alleata con lui, cioè è come lui vuole Casini, però senza un torino come Casini. D'altra parte, da tempo, dopo che io in tante volte gli parlavo di queste cose, aveva detto, ci sono almeno due pronunciamenti che forse vi erano sfuggiti, che lui sarebbe alleato con Casini, Montezemolo e Sgarbi. Ora, mentre Casini fa i cazzi suoi, Montezemolo è un meraviglioso candidato di quelli che dicono faccio un partito e non mi candido, Grillo fa un partito e non si candida, Monti fa un partito e non si candida, sono tutti lì che non si candidano. A questo punto un dato importante è che tu abbia alcune persone di buona volontà che vogliono fare qualcosa, prenderanno solo il 2%, il 3%, ma fanno una cosa nuova, fine, ed è legittimo che la faccia. Se non capisce neanche lui di farla, è un altro che evidentemente non ha capito. Vuoi fare? Non è che possiamo mandarli, fai le primarie con PDL, poi che fai le elezioni solo con PDL? Cioè mandi. Ma ormai che fa secondo te? Ormai che fa? Dopo questa uscita di Alfano che fa? La Lega non si allea, Casini non si allea, il candidato unico assoluto sarà Alfano, prende il 6%. Parenzo, che dici? Di qualcosa? Ma no, voglio dire, ragionando con serenità, è finito il tempo in cui ha vissuto Sgarbi. Basta indagati, Partito degli Onesti è un centrodestra liberale. Ma che c'entra il Partito degli Onesti? È un partito nuovo, liberale, in cui non c'è più spazio per gente che ha fatto quello che ha fatto, legislatori indagati con reati gravissimi come quelli di Cosentino. Rassegnati, rassegnati, perché sta finendo un ciclo. Finito, chiusa la Claire, Vittorio. Non ho più nulla. Dico finito. Che Cosentino è sostenitore della candidatura di Alfano ed è il capo che Alfano ha... Certo. Detto. in finito. Campania, imbecille. È finita. Un campano, non mio. A me è... non me ne frega niente. È finita, no, l'epoca delle case. Ma ha ragione. Ma finito. È finito il reality, Vittorio. Tempo scaduto. Reality finito. Per te. Il tempo è scaduto per te, perché uno senza testa non lo prende nessuno. Tu sei un morto. Non sei mai nato. Sei morto. E cosa fai? È scaduto il tempo allora anche per Grillo, che è indagato e condannato. Ma quando vai da Berlusconi? Infatti non si candida. Quando vai da Berlusconi? Non lo so, domani, dopodomani, insomma. Tanto a questo punto mi pare che siamo al re dell'azione. Ma vai lì a fare cosa? Ma non c'entra quello che io faccio con Berlusconi. Ma cosa vai a fare tutte le volte? L'ho sempre visto, Berlusconi è un editore. Tutte le volte ci vado da Berlusconi. Cosa vai a fare? Lascialo in pace anche lui. Ogni volta lì a bussare a sta porta di Berlusconi, basta. Ma che certamente, certamente, questo è un dato di fatto che lui debba non candidarsi. Ma sì, ma basta che tu, basta fare politica, vai a presentare una mostra, che ti frega, su, dai. Ma perché? Questo è un altro discorso, questo è un ottimo consiglio, valuterò se seguirlo. Da uno come te, che invece trova opportuno che ci siano Tabacci, Pisapia, della gente di questo genere, sì, che è lì da secoli e continua a comandare perché qualcuno non si è accorto di quello. Sì, ogni volta che c'è una candidatura, c'è Vittorio Sgarbi, adesso a casa mia, vicino a Porta Pia a Roma, cerco un amministratore di condominio. Candidati per amministrare il condominio. Questa non è male come battuta, però, Vittorio, non è male. No, no, una battuta, è un'idiozia veramente, veramente malata, cioè uno proprio non capisce che cosa. Siccome le mie idee le conoscono tutti e sono idee che non ho mai mutato, gli dirò che io sono il primo, quando lui gli leccava il culo, ad aver detto che Di Pietro era un delinquente. Ma no, mai qualcuno leccato. Guarderà anche quelli che hanno visto la storia. E io l'ho vista meglio di chiunque. Vale, lui in quel momento leccava il culo. È finita un'epoca. È finita un'epoca. Lo show è finito. Finirà prima Grillo di me. Prima Grillo. È finito il tempo. Vittorio, stanno già scorrendo i titoli di coda. Ma quali titoli di che? Calato. Ma quali titoli di che? È di calato. Che? Ma sai dire solo questo? Che la Claire ma è... no. Non capisce nulla, è un poveretto così, non comunque sai. Guarda, io lui è fuori dal stasera sono d'accordo con Vittorio su questa cosa di Alfano, sulla io la chiamo ridicolaggine di questa dichiarazione di Alfano, che è fatta per togliere... anche il centrodestra si pone il problema della legalità, ma non è per questo che lo fa, ma non problema. È per questo che lo fa, te l'ha spiegato, è per far fuori le candidature di Samori e Proto, lo fa, ma per questo non lo no. fa. Perché siete due capre, perché aveva annunciato già un anno fa, quando fu nominato segretario. Ma che c'entra? Aveva già detto che c'era un problema legato alla questione della legalità e delle indagate. Ma non sa niente, ma perché non sa niente? Si è ridotto ad appoggiare Alfano. Adesso vi ritrovo la dichiarazione, ve la ritrovo, guarda. Vabbè. Quando fu eletto segretario del partito. Ma sì, va bene, il partito. Ma non si va bene niente. Ma perché devi dire sì per assecondare il candidato ovunque, Vittorio? Ma io non sto assecondando nessuno, io sto dicendo. Stai assecondando Cartazio Benevolenti nei confronti di uno che si candiderebbe anche nel condominio di casa mia se gli dicessero che c'è una possibilità. Io sto dicendo che su Alfano, non dico che ha ragione sempre, ho detto che sulla mossa di Alfano di oggi ha ragione, perché uno che ha nello stesso partito, stai zitto, uno che ha nello stesso partito, l'ho elencato prima Vittorio, Dell'Utri, Cosentino. Si sono rotto le balle anche lui. No, non è vero, perché non li caccia, allora li cacciasse fuori dal partito. Alcuni sono addirittura rinviati a giudizio, altri condannati, altri indagati, plurindagati. Lo stesso Berlusconi è condannato e plurindagato. Di che parliamo? Allora di che parliamo? Era il primo luglio del 2011. Che il capo del partito in campagna, Cosentino, è candidabile alle elezioni. Si vede che non legge. Allora, il segretario è Alfano, sì, e il capo della campagna è Cosentino, che viene candidato. Quindi evidentemente sarà schizofrenico questo Alfano. E suo fratello, il fratello di Alfano... Ma sei sicuro di questo? Allora, certo, è indagato. Cioè, perfino a casa sua c'ha gli indagati. E proposto l'ha indagato anche lui. Certo, se uno continua così, sicuro qualche avviso di garanzia gli arriva. Stiamo a parlare agli indagati. Ciao Vittorio, stai bene? Salutami quel coglione che hai vicino. Ciao. Te lo saluto, ciao. Zara. Eccoci qui, 20 e 13, la Zanzara, 800 24 00 24. Mauro da Milano, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, vada. Volevo segnalarvi che non ve ne frega niente, però io 5 minuti fa sono passato al casello di Carisio e... Vabbè, il mitico casello di Carisio. Mitico, assolutamente. Vogliamo ridere. Bravo. Allora, no, volevo segnalarvi questa cosa qua. Io ogni tanto mi sintonizzo su Radio Padania, sì, che sono vostri grandi amici. Ma insomma, i nostri grandi amici, vabbè, per modo di dire. Tra virgolette. Tra l'altro mi hanno detto che il signor Sammi, non mi ricordo come, uno dei conduttori là, molto bravo peraltro, pare che in una trasmissione ci abbia massacrato, comunque insomma, abbia, abbia provato a, o abbia tentato di, che ne so, mi hanno comunicato via Twitter questa cosa qui. Comunque, ce ne faremo una ragione. Sì, ma insomma, non mi sembra sia un motivo di preoccupazione, ecco, Mauro. No, infatti. Comunque, niente, ogni tanto mi sintonizzo su Radio Padania per farmi due risate, sì, e verso le 7:15, così, vi segnalo questa cosa qua. Sì. Il conduttore fa una roba che è folle, secondo me. Cioè, loro prendono gli articoli dei giornali locali del nord, di Cronaca, sì, Nera, e selezionano puntualmente quelli che riguardano extracomunitari. Cioè, a Mestre il tunisino X è stato trovato con 5 grammi di cocaina nel Dacia, oppure a Paderno Dugnano il romeno Y è stato trovato che accoltellava la... Sì. Cose così. Sì. A Varese, roba... bel sì. La cronaca nera degli stranieri. Sì, a Varese, sì, bel sito, faceva robe con i diamanti. Bello, esatto, così esatto. È una roba... Sì, quello non lo dicono però. Non lo dicevano, dopo lo dicono. Vabbè, sì. Adesso però, forse lo dicono. Secondo me è una roba da propaganda goebbelsiana. Cioè è una cosa. Addirittura, sì, no, ma non esageriamo, dai, su. Ma sì, ma perché? Cioè, è follia pura, allo stato puro. Ma cioè, ognuno fa quello che vuole in casa sua. Loro decidono di fare una sorta di rubrica, la cronaca nera degli extracomunitari o degli immigrati. Ho capito, d'accordo, no? Con me che è di una scusa. Però, Mauro, scusi, ma non è che la presentano come la cronaca puntuale dei reati commessi in Lombardia oggi. La presentano come una... Ecco l'elenco dei reati commessi dagli extracomunitari, ecco, oggi in Lombardia. Ma uno potrebbe fa... dire, ecco l'elenco dei reati commessi da quelli con i capelli bianchi. Ma sì, d'accordo, ma... Sì, il reato è un reato, no? Ma non mi pare una cosa grave, insomma. È Radio Padania, cioè non è che uno si aspetta, sì, capito, la cronaca del TG1. Ma è la tipologia, è la scelta... Ma no, ho capito, però... ho capito, vagamente razzista il fatto di attribuire a un certo tipo di reato il colore della pelle di chi l'ha commesso, vabbè, perché allora ma come fa? Non è tutto vabbè, non è, no, tutto, ma non, vabbè, non capisco lo stupore, vabbè, capito, vabbè. Ma no, ma non è stupore, è la follia, perché allora facessero un report quotidiano sui reati commessi dai lombardi, perché i lombardi commetteranno dei reati. Certo, infatti qualcuno allora... dovrebbe farlo per dire, ecco, questi sono i reati commessi dai lombardi che probabilmente sono superiori ai reati commessi dagli extracomunitari. Ti credo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai. Eccoci, beccato. Qui la zanzara 2018 con una nuova barzelletta di Berlusconi. Era tanto tempo che non ci dilettava con una barzelletta. Ha raccontato davanti a Palazzo Grazioli, intrattenendosi per alcuni minuti con i giornalisti, la seguente barzelletta. Scusate, ho un problema. È un problema di famiglia, cioè mio fratello che va dal medico ogni momento perché pensa di essere una gallina, e il medico mi ha detto deve portarlo qui e deve restare in clinica almeno un mese, e io ho risposto, ma questo è un problema, come facciamo per le uova? Bah. Mario Capanna, le fanno ridere le barzellette di Berlusconi? Le fanno ridere? Oddio, di rado, questa poi mi ha raggelato. Buonasera, come sta? Buonasera, bene, mi sento con piacere. Siamo grande qui, Marione. Il reazionario che è il sottoscritto, come lei una volta mi definì, e il cosiddetto progressista che è Parenzo. No, togli cosiddetto. Il cosiddetto progressista sinistroide che è Parenzo, eccetera. Dove si trova? Dai, Catanga, fuori la spranga! Dove si trova, signor Capanna? A casa mia, in Umbria, sulla mia bambina. Oh, l'Umbria, la mia terra, e anche la mia terra, lo sa? Ah, questo mi fa piacere. Orvieto, Orvieto. All'Umbria meno. No, perché all'Umbria meno? No, perché tutte le terre hanno i loro malefici, diciamo. Beh, comunque, addirittura. No, figurati. Signor Capanna, ma lei andrà a votare le primarie del centro-sinistra? No. No, non gliene frega nulla? Perché? Perché la trovo una cosa non molto sensata, diciamo, no? Nel senso che... se negli Stati Uniti la cosa può avere un senso, da che si tratta di due schieramenti contrapposti, eccetera, beh, qui mi sembra un po' una finzione. Detto in breve, no? Sì. Quando i partiti erano degni di questo nome, e il leader veniva scelto, come dire, all'interno, no? Tramite una selezione interna assolutamente democratica e così via. Sì. E qui sono un po' i capi bastone che si confrontano con però già gli schieramenti precostituiti, per cui è tempo perso, secondo me. Ma perché è tempo perso? In realtà dalle primarie del centro-sinistra dovrebbe uscire fuori in realtà praticamente il candidato alla presidenza del Consiglio, poi c'è sempre l'incognita di Monti, eccetera. Ma lei è un estimatore del governo tecnico, non credo, caro Caparna. No, per carità, assolutamente. Assolutamente. Cioè una... andrebbe smantellato subito. Smantellato subito, cioè una iattura Monti. Ma non è che lo dico io, lo dicono i fatti. Qui abbiamo metà delle famiglie di questo paese che sono in braghe di terra. Ho capito. Abbiamo la maggiore percentuale di giovani disoccupati a livello europeo. Salari e stipendi fermi al 2001, quindi questo riguarda sia i precedenti governi di centrodestra ma anche quelli di centrosinistra. Non è che è solo colpa di Monti, Cioè è una cosa che grida vendetta, no? Scusi, oggi lei, Capanna, che insomma, è stato in politica, è stato in Lombardia consigliere regionale, è stato in Parlamento, è stato quello che è stato nella storia della sinistra italiana. Oggi per chi vota? Ma questo io non lo voglio dire. Come non lo voglio dire? Perché? Non solo perché il voto, come dire, è segreto, ma perché... sono contro questa sindrome per cui si pensa che l'elemento decisivo della democrazia sia il voto. La mia modesta opinione è che il voto certo è importante, ma è parte minima della democrazia. La parte vera è la partecipazione consapevole dei cittadini, che in questo momento, ahimè, è molto bassa. Ma che vuol dire la partecipazione consapevole dei cittadini? Scusi, Capanna, che vuol dire? Prego? Cioè, che vuol dire la partecipazione consapevole dei cittadini? Cioè i movimenti, le manifestazioni. La propria coscienza, il proprio cuore, il proprio corpo, associarsi e dare vita a dei movimenti che siano anche durevoli, già che la storia anche recente del nostro paese dimostra che quando le idee si sono messe a camminare sulle gambe dei giovani, ragazzi e ragazze, di milioni di donne e di uomini, abbiamo strappato conquiste che anche quasi mezzo secolo dopo ne conserviamo i benefici. Quando questo non avviene non si tira fuori il ragno da un buco, esattamente come sta avvenendo. Scusi un attimo, dunque lei non vuole dire oggi per chi, ma dove vanno le sue preferenze? Che ne so, Vendola, no, se no lo voterebbe, immagino. No, lui rifiuta le primarie, ma voterebbe Vendola, credo. No, secondo me è più che ne so, forse no, Ferrero non credo, no? Ferrero. No, ma non perdiamoci in queste cose. Ma è vero che lei, scusi Capanna, è vero che lei prende due vitalizi? Non ho capito. È vero che lei prende due vitalizi? Sì, 14. Addirittura, vede, io fui così matto che non prendo alcuna pensione dal Parlamento europeo, ma sa perché? No, ho capito, ma lei ne ha due però, una come ex consigliere regionale della Lombardia, credo. E una dal Parlamento, ma mi pare logico, no? Cioè lei fa il cumulo di due pensioni? Per 5.000 euro netti tra sì e no al mese, che indubbiamente è una cifra molto alta, però mi sento, per così dire, così coscienzioso che cerco in qualche modo di restituire al popolo ciò che egli generosamente mi dona. In che modo? Facendo il volontariato come presidente della Fondazione Diritti Genetici, che mi impegna molto e per il quale ovviamente non percepisco un euro. Che però, è sua, scusi un attimo, Capanna, al di là del volontariato, che uno è, quella è una questione di coscienza, uno lo fa. Sono diritti acquisiti, però, del professor Capanna. Sì, ma io non sto contestando. Volevo capire una cosa, lei prende 5.000 euro come ex consigliere regionale Lombardia, però altri 4.700... No, insieme. Cioè insieme? Insieme. Cioè sicuro che non piglia 9.000, no? No, assolutamente. 5.000 e basta? La mia dichiarazione dei redditi, come dire, è pubblica, per cui non c'è ombra di dubbio. Cioè, no, non si cumulano in realtà, no? Ho detto che si cumulano, ma il mio reddito di 5.000 euro al mese netti comprende ambedue gli emolumenti. Quindi vuol dire che è 9.000 erotti lordi che diventano 5.000 netti, capito? Esatto. Vuol dire che è quello. Senta Capanna, ma ha visto queste manifestazioni di protesta, la Cancellieri che vuol mettere la Cancellieri non li vuol mettere, l'arresto differito vuole fare, una cosa sacrosanta. Il DASPO per le manifestazioni sostanzialmente. Che è una cosa sacrosanta, no Capanna? Mi sembra. Secondo lei sì. Secondo me invece è semplicemente folle, oltre che, soprattutto per quanto riguarda il DASPO, notevolmente incostituzionale. Perché un conto è applicare il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive per i facinorosi, altra cosa è usarlo per dei cittadini che realizzano il diritto costituzionale di manifestare le loro opinioni e le loro contrarietà. Ma se uno lo fa con i San Pietrini in mano, angosce, scusi, se uno va, se uno va alle manifestazioni, non sono in pericolo quelli che vanno a manifestare pacificamente. Se uno ha uno score, diciamo così, una sorta di. La propria fedina penale o ma semplicemente il proprio score di partecipazione alle manifestazioni, il fatto di sassate agli agenti eccetera, uno a un certo punto deve dire no caro amico, tu resti a casa. Sì, però se voi permettete io vorrei un attimo correggere la impostazione, no? Prego. Un momento, prima vogliamo parlare per due secondi del perché questa gente va in e vabbè, ma quello lo sappiamo. No, non è le solite cose, capanna. Alcune centinaia di migliaia di persone cammineranno per Roma per dire che la scuola di questo paese è a pezzi. Ma ne abbiamo viste tante di queste manifestazioni. No, è d'accordo. Non però, è mai cambiato, ripeto, nulla. È un elemento, io non avrei quest'area di sufficienza che hai tu. No, perché però, questo è l'elemento, abbiamo detto, centrale della democrazia. Ok, ma questo possiamo essere d'accordo. Capanna, scusami, se uno scende in piazza con i caschi, perché portano i caschi secondo te? Allora, andiamo per ordine. I caschi. Se venisse applicato il DASPO, io ad esempio non potrei partecipare a una manifestazione. Ma chi l'ha detto? No, dico io perché. Perché io fui condannato nel 1969. Ma no, ma non c'entra, il DASPO mica si applica in questo modo il DASPO. No, aspetti, per sequestro di persona. Si rende conto, ma non perché avevo sequestrato a modo dei banditi sardi, perché insieme ad alcune migliaia di studenti venimmo accusati di avere sequestrato un professore all'università statale. Allora, capite, no? E allora? Dobbiamo stare molto attenti perché ho capito, ma non è che si, non è che non si va a vedere la restrizione dei diritti costituzionali. È un elemento sul quale bisogna andare con i piedi. Sì, ho capito, ma non si va a ripescare una cosa del 69 nel suo caso, cioè uno va a vedere gli ultimi anni se ti sei reso protagonista di cose, di cose gravi alle manifestazioni. Dire, no, come bisogna stare molto attenti. Ma la targhetta per i poliziotti, lei è d'accordo di riconoscibilità? Assolutamente sì, ma per una ragione molto semplice, no? Perché chi veste la divisa dello Stato deve rendersi conto. Ma sarebbe una caccia all'uomo poi? No, mi faccia dire solo rapidissimamente. Chi veste la divisa dello Stato, quindi polizia, carabinieri, eccetera, soprattutto quando sono in servizio di ordine pubblico, devono finalmente rendersi conto che quando fermano una persona, da quel momento questa persona nelle loro mani è sacra. E non la possono bastonare a tradimento come ho capito, ma non è che c'è solo il bastonamento a tradimento, ci sono le manganellate perché uno fa casino anche per risolvere una. Un momento, un conto è la carica della polizia, eccetera, di cui possiamo discutere. Un momento è quando un ragazzo viene fermato, come si è visto largamente, e per cui tra l'altro sono in corso indagini sui poliziotti responsabili di questo, che viene menato a freddo. Comunque, quando lei è d'accordo con questa roba? Questo deve essere ritenuto inammissibile. Ma questo è inammissibile, ma non è che si risolve con la targhetta, che la targhetta poi si apre una sorta di caccia all'uomo. Vabbè, Capanna, io voglio capire una cosa. No, però, no, mi perdoni, su questo punto. Voglio dire, ormai è invalso che gli impiegati pubblici o hanno il nome sulla porta dell'ufficio. Ma i poliziotti non sono impiegati pubblici comuni, cioè i tutori delle forze dell'ordine. Ha maggior ragione. Ma sono diversi dagli altri, non c'è dubbio, perché non bisogna riconoscerla questa cosa? Le forze di polizia. Io la riconosco. Tuttavia, qual è il problema? Se si porta il nome sul bavero del. Ah, lei addirittura dice il nome. Il nome. No, lei addirittura dice il nome. Certo. No, ma per carità. Ma assolutamente. Ma no! Ma almeno il numero di matricola. Vabbè, il numero di matricola è un conto, perché è un numero. Ma se addirittura metti il nome, questi qui vanno a cercare sull'elenco telefonico e poi magari gli fanno gli agguanti sotto casa. Ma no, ma non è possibile. Allora troviamo una onorevole mediazione. Almeno il numero di matricola. Ma di riconoscimento. Ma che serve il numero di individuabili. Ma se uno è individuabile anche dalle. Cioè, voglio dire, con le indagini interne e con le cose, si arriva a individuare il colpevole di una manganellata fuori posto, di un atto che è fuori dalla legge. A che serve mettere il numero di matricola là? Se non a sviluppare una sorta di. Poi di caccia all'uomo, ecco il numero. No, perdonate, non sono d'accordo, lo motivo in due secondi. E crea un elemento, per così dire, psicologico. Cioè tu dai meno manganellate? No, nel senso che dici, attenzione, se tu ti comporti in modo difforme dalla legge, sappi che la vittima è in grado di identificarti subito e di denunciarti. Ma non è molto importante, cambia radicalmente il rapporto tra cittadino e organi di repressione. Vabbè, Cavanna, ho capito, no, per carità, ma ognuno. Io voglio capire però una cosa. Lei, alla fine, però, siamo chiari su questo. Lei quanti soldi prende netti di pensione? Quanti netti? Ma gliel'ho già detto, 5.000 euro, non ci capiamo. No, ma 5 perché questo elemento è così importante? No, perché c'è la questione del cumulo. Non mi vergogno mica. No, perché c'è la questione del cumulo, sa, del cumulo, adesso è uscita fuori. Allora, no, ma lei cumula due pensioni? Gliel'ho già detto, non due pensioni, due vitalizi, sì, uno vitalizio, del Consiglio regionale e uno del Parlamento italiano. Però si risolvono in un solo vitalizio. Non ho capito. Si risolvono in un solo vitalizio. Certo. Bene. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per e siamo me. Qui 20:37 e non è finita, e non è finita, caro Parenzo. Pronti a combattere. Luca da Torino, buonasera. Luca, ho ricevuto. Hai ricevuto che cosa? Dimmi. No, una quantità di insulti dal professor Vittorio Sgarbi, che mi ci vorrebbe, come dire, un'indennità Sgarbi si deve chiamare. Comunque, vabbè, Luca da Torino, sei abituato, no? Dica. Io volevo semplicemente chiedere questo al signor Capanna, che magari adesso non è più in linea. Lui ha fatto parte del movimento studentesco e quindi è stato vicino alle persone che adesso ha definito in braghe di tela, no? Persone che hanno magari 800, 1000 euro al mese. Come può una persona per del genere presentarsi e dire che lui prende di vitalizio 5.000 euro al mese? Vabbè, perché ha fatto il parlamentare, ha fatto il consigliere regionale. Ma la sua attività di denuncia si riduce a dire che il paese attuale è in uno stato di braghe di tela, anche per colpa dei partiti di destra, del governo Monti. Anche per colpa dello spreco di denaro pubblico. E anche per colpa dello spreco di denaro pubblico di lui. Di cui fanno parte i vitalizi. Di cui fanno parte i vitalizi. Sì, può darsi. Di cui fa parte anche lui. Bisognava insistere forse anche su questo, però. Ma vabbè. Molto bisognava insistere, perché è giusto insistere su queste persone che poi hanno anche il coraggio alle 8:30 di sera di andare a dire che loro fanno attività di volontariato in una fondazione. Che, vabbè, quella è una stupidaggine, nel senso che ho detto, vabbè, che c'entra il volontariato? Ma va benissimo, ognuno va fa quello che vuole, non è perché uno si vergogna, non è che se uno si vergogna va a fare volontariato, ma si vergogna di 5.000 euro. Ma la coscienza dicendo che uno fa volontariato, mi spiego? Cioè, il problema è proprio quello, che a queste persone, a questo punto, bisogna far in qualche maniera capire che loro sono la colpa del dissesto attuale. Loro e il sistema che ci è generato, ma di cui loro fanno parte. Grazie Luca. Ferdinando dalla provincia di Novara, buonasera. Sì, buonasera, guardi, niente, volevo fare un appello prima di tutto, rinunciare di andare a ripresentarsi alle primarie assolutamente. Non ho capito, poi, non ho capito cosa vuole fare lei, un appello a rinunciare appello alle primarie? Agli italiani di rinunciare di presentarsi alle primarie, e andare a mai? Votare e soprattutto quando sarà il momento di ma votare. Ma perché uno non deve andare a votare alle primarie? Ferdinando, non deve andare, scusi. Perché è una sciocchezza, soprattutto perché ti chiedono 2 euro per andare a votare, ma a parte questo, proprio per il ma semplice perché fatto una che sciocchezza? Un voto, ma è un voto che vuole essere destabilizzante, ormai non ha più vuole senso. Essere destabilizzante. L'unico senso è non andare a votare, soprattutto vabbè. Di andare in seggio e chiedere di annullare la tessera elettorale. Beh, vabbè, lei fa quello che vuole, se lei vuole annullare la tessera elettorale non c'è bisogno di andare al seggio, cioè, basta che non va a votare direttamente. Cioè. No. No, perché che significa no? No, perché non è la stessa cosa, adesso diventerebbe ma, una... Ma che vuol dire annullare la scheda elettorale? Non gliela posso, ma non gliela possono annullare la scheda elettorale? No, si può, guardi, mi sono informato, si può. Quando lei provi a chiedere a uno scrutinatore se... E dunque lei che cosa va? Va al seggio, lei genio della musica, Ferdinando, lei va, esce da casa con la scheda elettorale in mano, giusto? Poi, a parte che in questo caso sono le primarie, per cui non c'entra nulla, mettiamo che siano siano le elezioni. Uno, lei va, esce con la scheda in mano, giusto? Esce con la scheda in mano, va al seggio, lei genio rispetto agli altri, ai poveracci che vogliono invece andare a votare, lei esce con la scheda in mano, giusto, va al seggio per farsi annullare la tessera elettorale, che vuol dire? Va al seggio e chiede: signor scrutatore, mi può annullare la scheda elettorale? Giustamente può annullare la scheda elettorale e il mio voto, perché non voglio che vada segnato a nessuno altro. Ma se lei non voglio ci va che venga annullato. Scusi, se Parenzo, descrivi la scena per favore. No, guarda, la scena è quella di questo signore che arriva al seggio. Come si chiama questo signore, ad esempio? Ferdinando. Ecco, sono il signor Ferdinando. si è, dice il scudo, io voglio annullare la mia scheda elettorale. Sì. Ovviamente sì, i signori volontari che vanno lì, perché sono volontari quelli che fanno questi, sì, lo guardi, dice scusi, guardi, noi siamo qui dalle 7 del mattino, abbiamo dato il gazebino, abbiamo fatto i volantini. Ma non sono tutti volontari, messo... gli scudatori sono pagati, comunque vabbè. No, fanno lavoro volontario. Ma che dici? Gli scudatori sono pagati, dai, su, David, dai. È tutto un lavoro, tutto un lavoro. Abbiamo messo la bandierina, ci siamo svegliati la mattina, siamo pagati 2 lirettine e lei viene qui a romperci i coglioni perché vuole annullare la scheda. Ma lo prendono, chiamano della forza pubblica che è fuori dai seggi e lo portano via subito a Regina Celi. Scusi, Ferdinando, che bisogno c'è di andare fisicamente lì per chiedere l'annullamento della scheda elettorale? Che non ha nulla da fare, non ha nulla da fare. Ferdinando, scusi, perché deve andare non lì? Niente da fare, perché non niente da, non, anziché stare con la fidanzata, con la moglie, con l'amichetto, con chi gli pare, non ha un cazzo da fare e deve andare a rompere le balle a chi fa una manifestazione come quella. E questa è la ragione, Ferdinando, unica. L'ex culo dei potenti, chi? Invece poi le persone normali, chi? Quando chiamano, di fare la voce grossa. David Parenzo ha ragione, guarda, Sgarbi mi sta sulle balle, ma ha ragione a mandarlo fanculo perché... è veramente un lecco culo. Ma perché? Che ha fatto? Che ha detto? Ha descritto la realtà, Ferdinando. Ma lei perché deve andare a rompere le scatole a un seggio elettorale? Non vada a votare direttamente, no? No. Perché? No, perché voglio rompere i coglioni. Appunto, allora ha ragione, certo, Parenzo. Certo, voglio rompere i coglioni. Ma se lei va lì e chiede l'annullamento della scheda elettorale, loro dicono, beh scusi, la scheda elettorale se la tenga, gli arriverà, lei non va a votare. Che vuol dire l'annullamento della scheda elettorale? Lei si vuole annullare come persona, no, come cittadino? No, guardi, mi perdoni, ma vuol dire che se io non vado a votare, il mio voto viene preso dalla maggioranza in questo caso. Ma non è vero. Annullando la scheda e poi soprattutto è un messaggio che lanciamo a queste persone. Ma non si può annullare. E vedranno che tutti avranno annullato la propria scheda elettorale. Ma non si può annullare la scheda elettorale. Non si può annullare. Ma perché gli dai retta? Perché più gli dai retta, questi qui, più gli dai retta, più pensano di dire delle cose intelligenti e di avere ragione. Bisogna dirgli sì, hai ragione, bravo, fai bene, fallo, dai, giusto, fai così. Bravo. Parenzo, io non ho ragione, bravo. Però guarda, Roma è un posto pericoloso, ragione, eh? Sì. In che senso, scusa? Sì, perché prima non, allora quando sono gli altri prelati che parlano per la comunità ebraica, Parenzo sicuramente non hai palle di dire che sbaglio. A parte che non esistono i prelati. Ma perché sei così ignorante? Passami qualcuno di più competente. Sarà qualcuno a casa tua di più competente, no? Ferdinando, grazie. È con noi la mitica, mitologica Francesca Cipriani. Te la ricordi, Parenzo? Ma come dimenticare la signora Cipriani, forse onorevole in futuro, non sappiamo. No, onorevole no, non credo. Non lo sappiamo, che no, ne sai te? No, onorevole no. E che ne sai te? No, è finita quell'epoca. E perché non potrebbe più farlo? Ma perché slogan, non l'ha mai, non sei, ma non l'ha mai voluto fare, non credo che vorrà fare politica, giusto, signora Cipriani? Buonasera a tutti innanzitutto. Come sta? Salve. Come sta? Ciao, abbastanza bene, grazie. Ma spero scusi, anche voi. Scusi un attimo, signor Cipriani, ma dia una soddisfazione a Parenzo. Gli dica, guardi, io non ho mai avuto intenzione di fare politica e mai farò politica. Glielo dica subito, direttamente, così si tranquillizza. Perché? Parenzo. Potrei fare una politica comica. No, vabbè, la politica comica adesso ce l'abbiamo già avuta, ce l'abbiamo quotidianamente. La no, politica. No, non mi interessa la politica, sicuramente. No, in prima persona non mi metterei, diciamo, ad occuparmi di questo. Brava. Senta, ma quante volte ha sentito parlare Berlusconi di politica, lei? Diciamo, tetto a tetto, intendo in una situazione a casa di Berlusconi. Cioè, ogni volta che incontrò Berlusconi, a quante scene è andata lei? Allora, le facciamo cene non le ho contate sulla punta, meno, una decina, non so dirglielo, qualcosa anche meno forse, ma non so, il numero non direi una sciocchezza perché non mi metto a contare le volte. Ha sempre parlato di politica? È abbastanza, a volte sì, due sicuramente. Palle, no, due palle. È un grande intrattenitore che si scherza, si ride, bisogna anche sdrammatizzare i problemi che ci sono, però poi quando si torna con i piedi per terra sulla realtà purtroppo ci sono tanti problemi che l'Italia deve affrontare, quindi... Certo. Però anche divagarsi con, diciamo, cose più leggere, parlare di altre cose anche, certo, va bene lo stesso. Però lei quando lo sente parlare di politica, mi dicono cosa? Ma è vero che spesso parlava, faceva una specie di comizio lì, no? A casa sua, di comizio, e tutti quanti stavano ad ascoltare. È vera questa scena? Sicuramente ha delle cose molto interessanti da dire, riguardo delle cose anche sia che ha fatto in passato, e io spero che anche per il futuro, cioè, continui a fare delle cose, certo, per l'Italia. Lei l'ha sempre votato? Sicuramente, sì, sono una grande sostenitrice, quindi... anche in Abruzzo da noi in prima persona, e sono abruzzese di origini, sì, quindi ho visto quello che ha fatto per il terremoto dell'Aquila. Ah beh, se lo ricordano tutto. In pochissimo tempo, cioè, ha dato il tetto a tutti i terremotati, addirittura dentro le case c'era anche, cioè, c'era tutto, non, c'era, non tutto, erano solo, sì, le case, ma erano, no, case tutte... già con, infatti, con l'occorrente dentro, non, sì, c'è dubbio. Infatti all'Aquila vorrebbero fargli un monumento. Torniamo tra un attimo. Traffico 800240024 ci racconterà le ultime vicissitudini. Insomma, qui pare che ci sia stato un diverbio, addirittura una litigata con botte, Parenzo, tra la signora Cipriani e Mora, Lele Mora, agente dei VIP, ex agente, che in realtà continua a fare questo mestiere, da quello che dicono. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Ma ne succedono di tutti i colori a Francesca Cipriani dal Torio. Dal Torio, ex partecipata a Grande Fratello e altri reality, showgirl. Che è passata da una brutta avventura sulla questione, te lo ricordi, Parenzo, no? Della sua operazione ai glutei, della sua, come no, che suoi... l'hanno sfigurata, le hanno fatto diventare i glutei come fossero una roba terribile, una cosa terribile, e sta ancora combattendo su questo. È passata da questo all'elemora, cioè, ma adesso ci dica la verità, ma veramente l'elemora l'ha picchiata? Se le cerca. Guardi, le dico di sì. Uno schiaffone, ci dica esattamente che, cioè, il gesto, purtroppo, che cosa, sì, è stato? Uno schiaffo o una cosa, no, più pesante? Sono stati due schiaffi da farmi girare la testa, cioè il cranio ha fatto proprio il giro a 360 gradi, dopodiché stavo andando via, mi ha continuato a strattonare, mi ha tirato per i capelli, voleva darmi, cioè, calci e pugni, dove coglie coglie, si dice, insomma. Addirittura calci e pugni? Ma andati a segno o no? Andati a segno? Come? Andati a segno questi calci e pugni? Schiaffi in pieno, che insomma la testa mi ha fatto male per tanti giorni. Avevo anche, sì, sulla TAC, ma la, perché? Prima TAC che mi hanno fatto, avevo una microfrattura cranica con anche una vena mister, sì, allargata dietro la testa. Quindi, invece calci e pugni per fortuna no? Per fortuna poi mi hanno tolta da lui, dalle sue braccia, tra virgolette, altrimenti insomma continuava. Io purtroppo non sono riuscita a reagire. Questa è una cosa strana, perché ognuno di noi ha, diciamo, l'autodifesa, cioè nel senso, purtroppo io da lui, sì, ero talmente basita da quello che era la situazione, non sono, ma scusi, riuscita a reagire. Che, a cosa, che cosa voleva esattamente? Che lei partecipasse ad alcune trasmissioni e facesse una copertina, questo è il punto? Diciamo che lui mi aveva già chiamato prima che succedesse questa cosa qui, già il pomeriggio aveva inveito contro di me verbalmente e telefonicamente, appunto, e dicendo, sì, cosa? Diciamo che era questo il motivo più che altro. E perché poi lei è andata a cena con lui, se sapeva? Perché che volevo chiarire, no, il telefono non mi ha fatto parlare, nel senso offendeva soltanto a livelli proprio che le diceva, che le diceva? Brutte parole, brutte, non voglio, sono parolacce, non dico parolacce, quindi non voglio, diciamo, dirle, però potete soltanto immaginare. Cioè lei voleva che, da quello che risulta, voleva che lei e il suo fidanzato andassero a una trasmissione e poi voleva una copertina su un giornale, da quello che... queste cose qui mi erano state proposte. Io sinceramente, voi mi vedete, diciamo, voi come tutte le persone mi vedono molto esuberante, che non è che non accetto televisione e giornali, però anzi è quello che vorrei continuare a fare, sì. Però sono molto particolare riguardo agli affetti, non voglio darli in pasto ai mass media o ai giornali, sono molto gelosa delle persone, sia dei familiari, sì, che della persona che mi sta, cioè, accanto. Lei insomma si dà in pasto, comunque è il suo mestiere, si offre io mi do in pasto con, vabbè, dei miei interventi su me, vabbè, stessa non ho problemi, cioè nel senso, però il suo fidanzato, quando si tratta di cose serie, suo fidanzato, no, non lo voleva toccare. Quando si tratta di cose serie, nel senso gli affetti, ma sia la famiglia, le amiche, l'amore, quelli tutto, no, cioè quelli la vita, no, la vita vera, la vita, la vita che vera, si spengono, certo, si spengono riflettori. Ma per no, cui l'Elemora fa ancora l'agente dei VIP, questa è la realtà. Non so, io so che non l'ho mai abbandonato, nel senso, quando lui era dentro l'ho aspettato, dentro nel caso, brutto dire dentro, vabbè, quando era, vabbè, in carcere, sì. Io l'ho aspettato, non sono andata da altre agenzie anche se mi erano state proposte. Senta signora Cipriani, sì, però c'è una cosa, ma perché Parenzo, ma io rispetto molto, perché questa Berlusconi, testimonianza per, drammatica, no, tra aspetta l'altro, un attimo, perché Berlusconi, lei è una di quelle che più o meno prende 2.500 euro al mese fissi? No, lei non rientra da quelle là. No. Però ultimamente le ha dato anche dei soldi, 10.000 euro, sbaglio? Sì, no, non si sbaglia, perché purtroppo questa cosa qui, anche del processo del Rubygate, che appunto mi ha creato problemi anche sul lavoro. Ma in tutto quanti soldi le ha dato Berlusconi, da quando lo conosce? No, le ho detto questi 10.000 euro per, come aiuto economico. Lui aveva detto anche ha fatto la conferenza stampa anche su Canale 5, aveva detto che avrebbe aiutato le ragazze che comunque... E prima quanto le ha dato? Prima quanto le ha dato? 2.000 euro. Basta. Sì. 12.000 in tutto, 12.000. Sì, purtroppo ho delle spese che urgenti, cioè ogni giorno ce n'è una, Milano è molto cara, quindi vorrei continuare Milano in questo settore, sto avendo dei problemi anche per questo fatto qui, che mi stanno, diciamo, rovinando l'immagine, i blog su internet con cose brutte, quindi... Le chiedo scusi, Cipriani, una cortesia, se può. Io adesso ho un anticipo IVA che devo pagare per a fine novembre. Può chiedere a Berlusconi, questa è la cosa. Se può per cortesia chiedere a Berlusconi, poi le incassa lei, ma insomma, poi ci mettiamo d'accordo. Mi servirebbe un piccolo anticipo per l'IVA che devo pagare adesso, e poi c'è anche l'IMG2 da pagare. Lo può chiedere lei direttamente, credo che sicuramente aiuta tanta gente. Adesso non so se apprezza molto, sa, quello che io dico, quindi magari se lo fa lei, secondo me ha pure efficacia. Non credo che poi con Parenzo c'è Berlusconi. Aiuta tutti, quando può aiuta uomini, donne, cioè omosessuali, tutte le età. Penso proprio di sì, perché assolutamente non c'è differenza con gli omosessuali, una scelta sessuale diversa da, diciamo. Va bene, spero che non abbia più bisogno di chiedere soldi a Berlusconi, o magari... Spero di lavorare, perché infatti io voglio lavorare, non voglio chiedere nulla a nessuno, però... Però, se sarà il caso, ci sentiamo la prossima volta, pubblicità. Vabbè, ma io sono contento, non dico più parole, me ne sbatto di tamburini, di qualunque cosa, di quello che mi parla. Vado, siccome non posso sopportare l'insinuazione degli stupidi, ti rispondo con le parolacce. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Povero coglione, una pulce, pidocchio, piattola, imbecille, stupido. Radio 24. La passione si sente.